Questo programma è offerto da Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Bambini, venite a sedervi in silenzio. Sta per cominciare Centocelle Avengers. Ecco, bravi. Vi ricordate dove eravamo rimasti? I cattivi avevano provato a sabotare la scuola di musica, ma con l'aiuto di zio Iron Man i ragazzi hanno potuto continuare a suonare. Peccato che poi a zio Suono sia quasi preso un esaurimento nervoso, un po' perché i suoi amici non gli stavano mandando il materiale e un po' perché Iron Man, per aiutare, si era messo in testa di suonare tutti gli strumenti. E allora Suono, vedendo la buona volontà del suo amico, ha colto la palla al balzo ed ha iniziato a creare nuovi modi per far diventare anche lui parte del gruppo. Qual è la morale, mi state chiedendo? Ragazzi, la morale doveva esserci la puntata scorsa, ma visto che zio Suono era troppo impegnato a suonare il gioco a Joe, è uscita fuori la solita puntata cuscinetto. Zitti tutti adesso, sta per iniziare Centocelle Avengers, solo su Radio Forte. Iron Man, c'ho paura a chiedere. Cosa? A che sto andando incontro? Cosa? Che tipo di puntata si preannuncia con siffatto riassunto? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? Iron Man, figliolo, devi inserire qualche vocabolo in più a papà, sennò te campiono. Cosa? Cosa? No, e fammi prima. Non capisco. Dai. Mi spieghi di grazia questo sguardo rivolto alle nuove generazioni? Che è? Ho pensato molto alla didattica e ho ideato un nuovo metodo di apprendimento. Sì, ma su che target mai lavorato? Non siamo scesi un po' troppo de level? Iron, qui in radio c'è già chi si occupa dei più piccini, c'è Aquiloni di Parole, e la mattina alle 10.30. Alle 11.30 su Radio Forte. Dove glielo sa pure Alexa. Se no si rischia quell'approccio alla Pixar che fa finta di pensare ai bimbi e invece poi ti caccia sti drammi interiori, che all'uscita dalla sala c'è il bimbo ancora più avvelenato e il genitore che piange turbato. Ho nostalgia di casa. Quelli non so film per bambini. Ma questa è una favola divulgativa. Cosa? Scientifica. Non capisco. Quella è la mia battuta. Ah, scusa. Chiedo scusa. Che vuol dire mo divulgativa? La tecnofiaba. Cala. Ecco il tuo copione. Allora fai sul serio. Studialo. Ma una buona notizia, regà. Alexa. Riproduco da saggio 2017. Ecco, meglio. The terror of knowing what this world is about. blind man. Set the fence, but it don't work. Keep coming, I will love, but this is slasher and door. Stai ascoltando Radio Forte 100 Rangers. Bello. Di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato. C'era una volta l'aria, un mondo magico dove la vita scorreva felice e veloce. Gli abitanti si davano da fare solerti, talmente solerti da raggiungere i 344 metri al secondo. Un bel giorno il signor Suono decise di andare a far visita al suo amico Orecchio. Chi sarà che bussa alla membrana della mia casa padiglione? Sono il signor Suono. Buonasera, signor Suono. Ma che strano modo ciclico avete di bussare? Sono le mie particelle che come una forma d'onda picchietta. Dai, ti prego, è una cacata sta cosa. Allora sai cosa ti dico? Dai, che non è giusto, non fa così. Perché adesso non saremo tutti i Roberti Saviani della fiction. Dai, ma anche qui ci diamo da fare. Torna qua, non fare il permaloso. Dai, apprezzo l'intento, giuro, ma è troppo. Come troppo? Anche io mi sono illuso che molti in questo periodo avrebbero fatto pace con la tecnologia, abbandonato finalmente quel tradizionalismo cieco, nostalgico, quel finto essere genuini, quel volere essere più vecchi dentro dei propri genitori che intanto si sono fatti TikTok. Ne conosco un po' così. E invece no. Dopo sta quarantena la gente il computer lo vuole bruciare più di prima. Ai cassonetti al posto delle lavatrici cominci a trovare i laptop. C'è gente che lo butta al fiume e gli fa il funerale vichingo. Tu ne sai qualcosa di acqua? In che senso? Sto parlando del tuo trauma fonico. Il trauma fonico? Il tuo computer ci ha raccontato tutto. Che? A mo' parlate pure col computer? Davvero non ricordi? Aridaglie, guarda che io c'ho un meccanismo di rimozione, ultimo modello. La scatola nera del tuo laptop parla chiaro. Che? La scatola nera? Era il 2017. Renoiz, c'è sta! Renoiz. C'è sta Renoiz, sì. C'è sta Renoiz. Noi stiamo tutti qui, non stiamo a casa a schiacciare il bottone. Gonfie di lacrime le bestie qua sotto. Vogliono tutte stare in un altro posto. C'è chi sopravvive pure con il culo rotto. Sì. Meglio che vivere facendo il poliziotto. 5 su 8 vorrebbero un appartamento senza dove dormi con legno sotto al mento. Gli altri tre con una stanza in affitto che non c'è piove dentro ma sotto i 400. Più mi sbatto, più divento matto. Se devo stare al passo, non essere distratto. Ci vuole poco per vuoi fare il mio ritratto? Scrivi pure che non so bene se non sto fatto. Logico, vuoi scappare lontano, via da papà e mamma che ti danno una grazie, mano. Grazie, ma è più economico fine 40 stare, in una specie d'arresto domiciliare. Si può non vivere, vivere non male, né il latte da comprare o l'affitto da pagare, e rimandare ogni cosa che c'è da fare, compresa liberare il tuo spirito animale. Il tuo spirito animale, tutti incastrati nella rete sociale. Devo aspettare senza agitarmi, la fila è lunga e può durare anni. Devo difendermi, devo attaccarli, devo allenare il mio animale a sbranarli. E se a difendermi non ce la faccio, se ad attaccarli non ho il coraggio, devo restare a guardare passare gli anni. E passare gli anni, meglio avere sempre davanti qualcosa per distrarsi, qualcosa da guardare per farsela passare, come una droga di fusione nazionale, dove scegli il dosaggio cambiando canale. Gli amici di Maria per farti compagnia, telegiornale se vuoi fartela prendere a mare. Storie di polizia che mostrano la retta via, bellezze al mare che mostrano le chiappe chiare. Per non parlare poi del digitale, con le serie americane, lo sport internazionale, costo uguale che un giornale al giorno, ma li vale. C'ho pure il porno per quando ho bisogno di scopare. Per fare vita sociale vado su Facebook, su MySpace, su Messenger Live. Troviamoci su YouTube, dai, guardiamoci su Skype. Diamo del detto nel centro di Second Life. Troviamoci col navigatore satellitare, poi mandiamoci messaggi d'amore col cellulare. Sentiamoci lo stesso pezzo nell'auricolare, perdiamoci nel mare dell'intrattenimento globale. Devi aspettare senza agitarmi, la fila è lunga e può durare anni. Io devo difendermi, devo attaccarli, devo allenare il mio animale a sbranarli. E se a difendermi non ce la faccio, se ad attaccarli non ho il coraggio, devo restare a guardare passare gli anni, stringere un lascio al braccio e cancellarmi. Devo aspettare senza agitarmi, la fila è lunga, può durare anni. Devo difendermi, devo attaccarli, devo allenare il mio animale a sbranarli. E se a difendermi non ce la faccio, se ad attaccarli non ho il coraggio, devo restare a guardare passare gli anni, stringere un laccio al braccio e cancellarmi. Renoit! Allora, che facciamo? Facciamo una pausa o prendiamo la scossa tutti insieme? Dice che piove. Perché era tanto che non suonavamo, allora non ci ha perdonato. Questo che vuol dire? Ragazzi, si è bruciato il mix. Gli mortacci, sua quanta l'ha fatta, oh. Gli mortacci, Daniele, ma hai visto che sgrullone che è arrivato? Ma che hanno a pensare che hanno a finire così? Vabbè, abbiamo coperto tutto, no? Te ti vedo preoccupato, che ti sei scordato? Renoit, mi stai dicendo che è stato Aquaman a fracicarmi il computer nel 2017? Vorrei dirtelo, ma purtroppo sei stato proprio tu, idiota. Perché mi fai questo? Coraggio, non è stato tutto vano. Adesso conosciamo la durata media di un laptop configurato con Dante Virtual Soundcar quando sopra ci piove la Madonna. Carini loro. A me st'umorismo tipo barzellette dalla facoltà di fisica mi fa scompisciare, guarda. Su, non fare così. Fa parte del programma. Che programma? Rehab. Che rehab? Prima o poi devi tornare al lavoro. No, no, la, no, lasciami per... No. Non fare no, così. No. Ora basta. Alexa, lancia il sedativo. Riproduco da cartella solisti. Total Eclipse of the Heart. Canta Mavi. Mavi. Every now and then I get a little bit lonely, and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous at the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Turn around. Every now and then need a little bit happiness and a like a child in your arms. Love in the dark. Nothing I can see, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can see, a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. A total eclipse of the Forte, 100 Cielo Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Dai, coraggio. Non lo so. Stavolta andrà bene, dai. Abbiamo studiato, no? Sigla. Mille ce n'è nel mio cuore di fiabe. La favola di Yuku. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. C'era una volta, in un luogo lontano, lontano, giù, giù, giù, nell'arcipelago della Sprofondonesia, un piccolo villaggio, costruito su di un'isola vulcanica, fatta di terra vulcanica, con tutte le conseguenze vulcaniche che questo comporta. E cioè che il villaggio si trova in effetti ai piedi di un vulcano. Gli abitanti del villaggio erano Yuku, discendenti di un'antica potente famiglia sprofondonesiana, e vivevano felici? No, proprio felici no, un'alternanza di emozioni tra il godersi il mare tranquilli e il temere di essere travolti dalla lava bollente. Erano tutti un po' nervosi, un po' stressati, un po' schizzati. Oh. Le attività principali erano due: starsene in spiaggia e raccogliere i frutti del mare e organizzare rituali volti a placare l'irrequieto dio vulcano, che sovente decideva di eruttare e cancellare tutto intorno a sé. Così, per noia si diceva, per ira si diceva, intanto sbragava tutto. E agli abitanti rimasti l'arduo compito di ricominciare da capo. Altro che lockdown, una Pompei all'anno, fai tu. Yuku erano esausti, toccava tenesselo buono. La famiglia di Yuku era così composta. Il più anziano della famiglia era Uku Base. Con lui vivevano Uku Baritono, Uku Tenore, Uku Concerto e il piccolo Uku Soprano. Ogni anno Yuku organizzavano il grande rituale propiziatorio ai piedi del vulcano. Sacrifici? No, non si può definire così. Diciamo che al momento culminante c'era sì un componente della famiglia scelto che si faceva portavoce della collettività davanti al dio. Saliva sull'altare della musica e mostrava ciò che di meglio il villaggio avesse da offrire. Sì. Armonia e melodia. Ma come? Eh sì, che te pensavi che facevano tutto il giorno sulla spiaggia? Pescavano? No, suonavano. Una mattina di buon'ora, Soprano aprì il cancello e uscì di casa. Era un giorno speciale quello. Suo fratello Concerto era stato scelto per suonare al cospetto del dio Vulcano e tutta la famiglia Uku accorreva per sostenerlo. Nonno Uku Base era così fiero del piccolo Concerto. Fagliela vedere, figliolo, gli disse aiutandolo ad accordarsi. Ma perché non posso andare io dal dio Vulcano? Lamentò Soprano. Tagelit, sei troppo piccolo, ribatté il nonno. Ma nonno, Uku Concerto è solo un paio di centimetri più grande. Ho detto di no, è pericoloso. Tuo fratello è più maturo musicalmente. Quest'anno tocca a lui. Buonò seccato il nonno. Uffa, non è giusto, protestò il piccolo Soprano. Stai a vedere, moccioso. Il giovane aiutante Concerto si incamminò verso il minaccioso vulcano e, giunto all'altare della musica, invocò la formula di rito. Oh potente dio vulcano, queste sono le note che in dono ti portiamo. E quello eruttava. Villaggio distrutto, si ricomincia. Ma com'è? Si chiedevano tutti. Qui siamo oltre il concetto di dio vendicativo. Non fu molto diverso l'anno di Ukulele Tenore. Vai figliolo, stavolta spacchiamo. Ma nonno, però, perché sempre soldo mi là come gli altri? Io sono tenore. Chiese Tenore con un qualche dubbio. Tieni la cassa armonica più grande. Vabbè, va. Chi ste? Fatti valere. Vai. Niente. Tanti sforzi ma nulla. Arrivò l'anno di Baritono. Era il più grande di tutti, dopo nonno ovviamente, ed era l'unico con un'accordatura diversa. Re, sol, si, mi. Soprano era molto affezionato al suo fratellone. Baritono lo difendeva sempre dagli altri fratelli monelli, ma in realtà, a dispetto delle sue dimensioni, baritono era un bonaccione. Come si dice, grande, grosso e bambacione. «Me sto a cagà sotto», disse in confidenza al suo fratellino. «Dai, Bari, andà tutto bene», sussurrò Soprano. «Sì, parli bene, te. Quello se ne accorge». «Di che?» «Che suona chitarra con due corde di meno». «Ma no, dai, non se vede niente, sta tranquillo», ribatté lui. «E poi c'è nonno Cubase, andrà tutto bene». «E basta con sto motto, che porta pure sfiga», ribatté il baritono. «E poi lascia sta nonno che è pure le caucciù. Non ce vuole sentì. Vedi a te che t'hanno riformato questo soprannumero». A Soprano sta cosa non andava giù. Decise che avrebbe trovato una soluzione e salvato tutta la famiglia. L'indomani all'alba uscì di casa convinto a recarsi lui all'altare della musica. E solo quando giunse ai piedi del vulcano scoprì di essere stato a sua volta preceduto. Intanto si accorse che dalla base del vulcano partiva una lunga strada fatta di mattoni gialli. Sai, a volte non te ne accorgi, d'estate fanno i lavori, può essere. Ma appena Soprano imboccò la strada, notò con stupore che poco più avanti camminava una bambina. E non era sola. Con lei a braccetto andavano anche uno spaventapasseri, un uomo di latta e un leone. Sì, Soprano sapeva chi erano. Nonno Ukubase gliel'aveva raccontata tante volte quella storia. Ma cosa ci facevano lì? Gli corse incontro e si presentò emozionato. «Ciao, io sono Soprano!» strillò «Ciao, lui. Noi siamo...» lo so, tu sei Dorothy!» «E loro sono spaventapasseri, uomo di latta e leone!» «Però sei informato? E sai mica dove posso trovare...» «Casa, casa! Tu cerchi di tornare a casa!» «La mia canzone!» gli disse la bambina. «Qualcuno ha rubato la mia canzone!» «La tua canzone?» «Senti, piccole, io ho una certa età. I signori sono da SIAE.» «Avvocato Spaventapasseri, molto piacere.» «Sono qui come titolare delle royalties. Ora, se vuoi aiutarmi, sto cercando un certo signor Vulcano, che mi dicono essere informato.» «Qui la mia cliente ha diritto...» «Ma la canzone come fa?» chiese lui curioso. «Somewhere over the rainbow.» «Devo andare, devo andare, devo andare!» «Ragazzino, dove vai? Fermati!» «Devo andare, devo andare, devo andare!» Soprano corse via verso il villaggio, sapeva cosa fare, aveva capito, non c'era un minuto da perdere, doveva avvertire tutti. «Sveglia, fratelli, sveglia! Sveglia, fratelli, sveglia!» «Oh, ma che, madonna, che cazzo vuoi, che cazzo vuole questo?» «Oh, ma che, ho trovato un modo per spezzare la maledizione!» disse. «Come?» «Per rompere l'incantesimo!» aggiunse. «Cosa?» «Oh, per intortagliare addio vulcano!» concluse. «E vai blaterando, Soprano!» «Suoniamo un'altra cosa!» «Un'altra cosa!» dissero in coro. «Il dio è adirato con la moda, col dozzinale. Ci siamo andati a fregare una canzone di suddisse per 39. Possiamo fare meglio. Fidatevi di me. Dobbiamo andare subito là. Insieme, stavolta.» «E vabbè, allora andiamo, dai. Andiamo. Ma allora le dimensioni non contano. Conta solo come usi lo strumento.» «Ah, barito no. E manco così però, eh.» Corsero tutti ai piedi del vulcano, questa volta uniti come una famiglia di supereroi. «Ah, roba nuova!» «Lancia melodia!» «Eso me gusta! Può darsi che noi...» «Dicami così! Ora il mondo è dei nuovi supereroi che combattono il suonato male. Da oggi voi siete gli Ukulelers.» We'll be right back. della legge, la città che si difende. La maschera è presente, come sulla gente, saperne dove e quanti invadono altri mondi. La corsi da galassia, balzano, conquistano in onda sugli schermi danni. Touch, don't touch, riccioli fa allarmi, ma il tempo è differente. Agganciamento d'armi ancora più forte, Defender, Infinity Avenger, rilanciano l'attacco, con un raggio corto c'è più impatto. Visioni, dirigono i più forti, nella salvezza delle gemme tuoni, tuoni e suoni di altri suoni. Park e Strange, dirigono a Titano, al fianco Stark tutto sembra volgere in azione. Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando combattendo armi nucleari. Portano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mostri disumani. La terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia. Vince, ritorna forte con i valorosi Avengers. Grandi eroi di prima, quelli che non vedi perché non sono più quelli che scegli veramente. Avengers. Ed è sigla long version. Vi è piaciuta, amici? Questa atmosfera da ultima puntata, tutte long version. Ringraziamo Matteo, detto Stick Beep, featuring, e andiamo avanti verso il futuro e oltre con uno spot. Spazi musicali autogestiti presenta Scuola di Musica. Grandi, forte. Bravi tutti, bravi, cinici. Eh? Dove la gatta? Vabbè, vado a cercare la gatta. Voi state qua, maledetto. Sei stato proprio bravo. Trovi? Davvero? Certo, è stata una grande interpretazione. Ma io non si fida di me. Io volevo fare il narratore, ma lui non si fida di me. A chi lo dici? A volte è insopportabile. Mi trovo bene a parlare con te. Anch'io, sai. Mi sento capito. Solo. Sento che tu mi capisci. C'è una cosa. Cosa? Non so se è giusto parlartene. Puoi parlarmi di tutto, lo sai. È una cosa un po' delicata, non saprei. Io posso capire. Credo di essere innamorata. Davvero? Non ho il coraggio di dirlo ad alta voce. Davvero? Non capisco, è una sensazione nuova per me. Posso aiutarti? Parlamene. A volte, guardando la pioggia, sento una strana fitta. Anch'io. E avverto un fremito. Come me. Anch'io avverto un fremito. Devo chiedertelo. Sì. Non posso più nascondermi. Dimmi. Parlamene. Credi che Aquaman stia ancora pensando a me? Se lui fosse sopravvissuto, forse allora posso ancora sperare di incontrarlo? Non voglio illudermi, tante cose da dirgli, che poi noi siamo molto simili. Grazie a te ho capito che... Ma mi stai ascoltando? Sì, ho capito. Wherever you are. fuerte, mi amor. Avenger. Che cazzo? Oh, che abbiamo detto sul bagno? Aaron, che cazzo ci fai qua? Il reset non ha funzionato. Chi? Chi? Io stavo pisciando. Lei non ha dimenticato. Alexa, chi? Aquaman. Aquaman? E a te che te... Aspetta un po'. Ma che me stai a dire? Tu? Con Alexa? Ma sei sicuro? Non mi piace sta storia, eh? All'interno del nostro affiatato gruppo le relazioni si dovrebbero evitare. Vuoi fare la fine dei commitments? Iron Man, questo era un comandamento della scuola di musica. Un disegno di legge che viaggia da mesi tra le due camere. Chi sei tu per contravvenire? Chi sei tu? Io credo di amarla. Ma quanto sei emo? Col ciuffo? No, senti, io rispetto le nuove generazioni, eh? Non mi piacciono quelli che fanno i vecchi saccenti, indisponenti. Però le parole sono importanti. In che senso? Se decidete di appropriarvi, voi giovani, di una parola del passato per dire altro, avvertite, discutiamone. Non capisco. Nel senso che per me l'emocore è una cosa. E già di suo evocava uno scenario abbastanza triste. Però quei ciuffettoni sull'occhio ci azzecca poco. Ecco, c'erano questi per esempio. Sono venuti pure al forte. Poi diciamo Alexa ti fa una bella ricerca. Intanto ti è. Forward than you once. Still you keep it up. Is that delusion? I'm so apparently. Won't fit and reconditioned. Parts. You're very engineers. Sick from the moon. mainstream come Big Jim. Radio forte che con player solo quando gioco a passi notte. Cento cella Ranger style. Senti, vieni qua, parliamo. Allora, intanto sta cosa del spaccatutto è una fase adolescenziale che va superata. Non capisco. Rapidamente, eh. Ma poi, in generale, non è che mi puoi passare da 0 a 100. Non capisco. Prima sei un pezzo di ferro e poi mi sviluppi emozioni complesse a buffo. Per chi te stai a fare le paranoie? Aquaman. Ma anche ammesso, ma che ha meglio di te, dai. Guarda qui, tiè. Fagli vedere questa, Alexa. È Aquaman da piccolo, biondino, cavalluccio. Dici che si intenerisce, che è peggio. Vabbè, ma poi non è questo il punto. No, amico mio, vorrei che ci pensassi un po'. Non essere affrettato, non te fa capire. E se poi te ne penti? Perché? Io l'amo. Che non mi piace molto che ti getti così tra le braccia del primo device con voce femminile suadente. Nell'età dell'imprinting digitale, poi, non vorrei essere così banale. Darei la vita per Riley. Ecco, appunto. No. Senti, io le sono affezionato, questo sì, ma non mi fido più di tanto. È sempre un po' manipolatrice, no? No. Soprattutto con te, eh. Con me? Poi venale, mamma mia, venale, ma proprio di quelle persone super demanding. Bella vita, struscia la carta, struscia la carta. Ma, eh, te l'ho detto, giro. Un po' aristofric. Ecco, non mi veniva... Nuovo, conosco, faccio delle cose... Lei non è più così. Se secondo te non lavora più per Amazon. Amazon? Per me ci ha già profilati tutti. L'ho spenta, non può sentirci. Ecco, guarda lo schermo. Ho detto profilati, è uscito ferramenta profilati in alluminio. Te dico che è una spia. Ora basta, non parlare così di lei. Che cazzo! Senti, super minchione. Ti ricordo che quando sei arrivato qui, la prima cosa che hai fatto è stato disintegrarla. Poi si scopre che in realtà l'hai imprigionata dentro un software audio. Poi lei ha cercato di ucciderci, aiutata da Max Cavallera col tridente. Aquaman, non me lo ricordare. Ma non voglio esprimere giudizi, io poi su ste cose piedi de piombo, eh. Ma non lo so se invece vedo bene insieme, eh. Non parlare così di lei. Io l'amo. Ora basta. Non mi farò insegnare la vita da uno che si nasconde. Traumafonico numero 2. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Questa voce. Questa voce. No, non è possibile. Signor Lombardo. Signor Lombardo, è lei. Signor Lombardo, è lei. Non ci credo. È bello che io abbia questa occasione per spiegarle. It starts for me, in the mind. Ricorda la serata al forte, sì. Ero io al mixer di palco, ricorda. Volevo spiegarle, sì. Che non è stato soddisfatto, ma io, vede, non sapevo. Non sapevo che lei usasse due casse. Ok, lo sapevo. Ma vede, fare eventi al forte comporta un impegno collettivo e spesso, come quella volta, accade tutto in fretta, a luglio, sudi, scazzi. Io non rimasto senza pezzi. Non volevo. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria mi aveva portato il tight. C'era il problema di mia madre. Lombardo. È crollato la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Ma è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Non può sentirti. È solo una proiezione. Superare l'evento. Lo so che hai dormito male, ma devi rimontare in sella. Non posso portarti le crostatine per sempre. Devi tornare al lavoro. Cosa? Voi fonici vi comportate come se foste chirurghi. Intanto fuori quel giorno la gente sentiva questo. La prossima volta parleremo di Cristina D'Avena. Come l'hai saputo? Chi te l'ha detto, mostro? Io so tutto. What's up, Italy? Are you ready? Make some noise! from Venice Beach, California, suicidal tendencies! Roma. Sei un filino vendicativo, Iron Man. Un vero Avenger. Dovevo farlo. Anche se ti odio, l'ho fatto per te. Beh, anche io l'ho fatto per te. E comunque non so bene dove vuoi che torno a lavorare. Cioè? La situa non è proprio il massimo al momento. Non so se lo sai. Me lo so scelto bene il mestiere. Non capisco. Te pensi che il mondo dei fonici sia un ambiente rock and roll alla mano, pieno di fricchettoni? E invece lo sai dove attinge il mio mondo? Dove? Chi ci stava in Italia quando si sviluppava la radio, la fonia, si formavano i primi tecnici? Chi? Detto sinteticamente, i fasci, Iron Man. Chi? C'era proprio lui. Eh sì, gli tornava pure utile come strumento. La dittatura, la radio può far comodo. Comunque non voglio dire che l'hanno inventato loro il lavoro mio, ma gira che te rigira, l'ambiente è nato così. Non sarà un caso se per anni è stato un mestiere dei bottegai che si passavano la conoscenza così, a simpatia, come me con te che hai avuto sta fortuna. Che culo. Non sarà un caso se non siamo minimamente sindacalizzati, se non sappiamo manco se a noi ci pensa l'INPS, l'EMPALS, che poi diventa INPS, se se famo riccamente i cazzi nostri, se l'ambiente è pieno zeppo di sessismo, macismo, xenofobia. Calmati. Lo so, mi fa sbroccare. Te ci hai mai lavorato a Cinecittà? No. Sarà cambiato, certo. Ma quando stavo là, mi sentivo sta sensazione strana. Non capisco. Sto mezzo senso di colpa. Come quando vai al mare a Sabaudia, no? In quell'architettura futurista. E un po' te fermi a pensare. Sarà il sole che picchia, ma te metti a pensare, no? E te senti sta cosa strana. Pensi pure a quanti ancora gli so grati per sta cazzo, le storie della palude pontina. Ci sarà stato qualcosa che ti ha fatto continuare? Sì, qualcuno che ti aiuta a capire lo trovi, se vai oltre, se ti piace sto lavoro più che altro. Uno in particolare una volta mi ha illuminato. Chi? Si occupa di Music and Politics, su Radio Forte. Music and Politics. E lui per dire è uno che mi ha visto nasce. Come fonico, no? Mi ha conosciuto in quella fase, subito dopo la scuola, pedante, fastidioso. Ah, sì. Come te, testa calda, testa no? Testa calda. Quanto si apprezzano Iron Man i fonici neopatentati che si presentano ai tanti, tu non immagineresti. E manco io me lo immaginavo. Tant'è che a una certa lui mi disse: in questo lavoro devi sapere di non sapere. Citando Socrate. Non lo so, io con i nomi dei fonici mi confondo sempre. Comunque il concetto era chiaro. E cioè? Che al mare non vado più a Sabaudia. Me butto ai 300 scalini, che c'è sta pure un altro amico mio. Questa è pizza con i Don Biccaro. Maledetto vino. Lo avrei detto anch'io. No, no, è il titolo. Chiedo scusa. Maledetto vino, maledetto me, maledetto quel giorno che ho incontrato te. Maledetto il braccio che a bocca sa arrivare. Maledetto bicchiere che vuoto non sa sta. La sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà. Maledetto vino, maledetto me, maledetto quel giorno. Ascoltando radio forte, tanto forte al punto che è 100 celle Avengers. Sì, una mamma per amica. Siamo a questo. Fa molta attenzione con quella. Lorelai ha problemi con Luke. E Rory non sente Logan da tempo. Una puntata che ci Luke è il classico coatto americano col pick-up. Lorelai merita di meglio. Detto ciò, hai rotto il cazzo. Alzati. Va. Cosa? Maledetto. Maledetto che hai sabbrutito. Alzati. Va. Non sei posta così. È giunto il momento. Non pensavo che l'avrei detto. Che momento? Dobbiamo uscire di qua. Uscire? Tu? Sì. Abbiamo bisogno di staccare, dai. Entrambi. Andiamo a farci un giro, una boccata d'aria. Guarda, voglio andare contro i miei principi fondamentali. Andiamo al Pigneto. Il Pigneto. Dai, carpe diem, Iron Man. Dai, dai, chiediamo pure a Alexa, eh? Eh? Se gli va di uscire. Sta sempre a lamentarsi che non è mai uscita. E ci facciamo una serata diversa, in un altro contesto, ti fai vedere un po' più in forma, eh? In forma. Sbarazzino, audace, sagace. Sbarazzino. Dai, dai, dai. No, mi vergogno. Che scemo. Guardami in faccia. Dai. Non lo so. Dai, vabbè, ci parlo io. Non lo so. Dai, vabbè, ci parlo io. Alexa, si diceva con Iron di andare a fare tutti insieme un bel giro, eh? Al Pigneto, magari. Davvero? Meraviglioso. Che bello. Posso portare un'amica? Amica? Ciao, io sono Siri. Ciao, Siri. E tu da dove... Che bello il Pigneto. Oh, che sta succedendo? Posso portare un'amica? Non lo so. Buonasera. E te chi sei? Signor Cortana. Cortana? Ma come parla? Credo che lavori per Microsoft. Ah. Mai stata attivata. Mai sentita. Ha bisogno... Posso portare un amico? Ciao ragazzi. Vabbè. Posso venire anche io? Sì. Oh. Dai, vabbè, non va collate. Siamo sei in macchina. Per favore. Ok, Google, vieni anche tu. Mi salamo. Che bello il Pigneto. Che bello il Pigneto. Che bello il Pigneto. Oh, musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte, laboratorio di musica d'insieme con Daniele Antonio. Io gli dico sempre queste cose. Bambini, 3, 4. Bravi, tutti in enoteca. Scuola di Musica Forte, lezioni di chitarra con Mirko. Andy, io comunque pure sto impazzito, ma al saggio perché non gli famo fa questa? Scuola di Musica Forte, la musica resiste. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Via via, resta qui sulla più forte, piena di musica. Ma siamo sicuri? Vabbè, no. Finalmente fuori. Mamma mia. Che gioia. Eccoci. Guido io. Ma non se ne parla proprio, la macchina dei papone, sì. Poi te me te immagino come guidi. Guarda, non me lo fa dire, ma io sono il guidatore sobrio qua. Oh, siamo in sei, raga? Siamo vabbè, arrivati. Fate musica. Cantate una canzone. Si dice buonasera, si accende il lumicino, si dice buon mattino. Forse anche il testo non funziona, quindi adesso vado. Mo che è sto cantericcio? Ma che stiamo a scherzare? Regà, c'è sta l'autoradio. Devices, ci sentiamo, Radio Forte. Ma gli esperimenti sulle onde medie non sono completati. Quello che dici non è reale. Perché te sei reale? Long flight. It's my first night in Berlin, and I want to dance. Where should I go? Well, there's Berghain, or you can go to the Sisyphus. Actually, I read about this place, the Conscious Club. Oh, the Conscious Club! Mit Joe Dodd! Wolfpack is the house band! Yeah, Wolfpack, that's it. Do you know how to get there? Actually, I do, but it's very, very complicated. Welcome to the Conscious Club. Conscious Club. Say I feel, ask you for your under new management. Please enter your old CC ID as we transition databases. Vabbè, qualcuno sa la strada? Fra 150 metri, svolta a destra. Oh, una volta. 50 metri, no. Alla rotonda. Ma mo che prendi la prima uscita. Ma mo che c'entra? Fra 50 una volta. Metri, prendi la prima uscita. Fra 50 metri, alla rotonda. Prendi alla rotatoria fai una inversione a U, poi gira a destra e prendi via del minchione. Stata quartu, auto. Sta sbagliata strada. Più avanti. Giro qua, giro qua. Alla rotatoria fai una inversione a U, poi gira a destra e prendi via del minchione. Una strada meglio. Ho trovato una strada meglio. Attento. Non capisco. A te! No. E stai aia! Aia! Calmati! Calmati! Sei in salvo ora! Aia. Ci ho pensato io. Oddio, sono tutto rotto. Aia. Siamo a casa. Tutto rotto. Ma perché? Ti odio. Non dire così. Tutta colpa tua. Non dire così. Cazzo, non dire. Devi riposare. Vuoi che ti racconti una fiaba? Basta! Ti piacerà. Ascolta. È la favola dei due dei. Lasciami stare. Si narra che in origine vi fossero al mondo due dei. Entrambi suonavano la batteria, ma uno era buono e uno era cattivo. Mazza che trama. Dave il buono era dell'Ohio e suonava in una band punk. Dave il cattivo era di Cuba e suonava in una thrash metal band. Dave il buono amava il tuppa tuppa e si accontentava di una cassa, un rullo o un tome e timpano. Dave il cattivo voleva il tritacarne, due casse, sette tome e le rullatone corte. Dave il buono suonò il forte penestilo con gli scream e si divertì un mondo. Dave il cattivo inneggiava a Satana e la sua band fu accusata di essere filo nazista. Come Walt Disney? Più o meno. Dave il buono fondò un gruppo un po' triste, ma con una certa grinta. Dave il cattivo partecipava ai rituali satanici con gente poco raccomandabile. Quando il gruppo triste divenne molto triste, Dave il buono decise di prendere la chitarra e cantare. Dave il cattivo intanto con la sua nuova band inneggiava al suicidio. No. Dave il buono salvò dal fallimento il vecchio studio in cui era cresciuto, Sound City. Dave il cattivo venne al forte prenestino, fece un concertone, ma non sentiva niente. E giurò al fonico di palco che si sarebbe vendicato parlando male di lui a tutti. Dave il buono sentì parlare di questa storia e ricordando i bei tempi al forte prenestino decise di tornarvi con la sua nuova band. Ma che davvero? A prezzo politico. Ma che stai a dire? Non è vero niente! T'ho raccontato un sacco di fregnacce! Ma davvero? Sì! Anche stavolta abbiamo ripanato la finestra. Ecco qua. Ecco fatto. la finestra a posto e io me ne vado proprio. Bye. Grazie bye. Signor Monocchio, lei è sempre così disponibile. E ci mancheresse, mancheresse rasse, ma mancherasse passe. Ma come ha fatto a romperla così? Come ha fatto? Come ho fatto? Mi faccia parlare, guardi, che qua. Non mi faccia parlare, guardi. Ho capito. Stanno i marioli. I marioli, sì. Quelli, no? La specie. Capito. Comunque, grazie ancora. Arrivederci, eh. Tante, cari. Arrivederci. Lo so io come ho fatto, eh. Uomo de latta. Dio Vulcano. Sì, Dio Vulcano. Te posso dire che te l'avevo detto? L'ho detto. Cosa stai dicendo? Sono complicati i rapporti fra device. Non ci si può fermare all'apparenza. Non capisco. È la programmazione che fa la differenza. No, la voce. Se no, la svolta del digitale, in dove sta? L'elasticità, la flessibilità dell'algoritmo. Metti che ti piace Google. Che? Dico, metti che ti piace un qualsiasi Android. E chiudi sta finestra. Per me è uguale. Ricomincia. Non ci sono modelli. Ti devo dire una cosa. Ricomincia con Pippone. Ti devo dire del mio di imprinting. È importante. Se no mi fai gli stessi errori, mi caschi nelle stesse cose. Quando ero al 5° anno e 11 mesi di vita, era fatta. Stavo per concludere il tirocinio freudiano, che so appunto 6 anni con la specializzazione, e mi avviavo al mio futuro di maschio alfa, alfetta, beta. Che preferisce l'azzurro, che gioca con Big Jim e non con Barbie. Mi segui? No. Ormai era fatta. Modelli assimilati. Freud è severo. Una sera di quel periodo era previsto un grande evento nella mia vita. Quale sera? La sera del tulipano nero. Tulipano nero. Gabriella Golia in persona aveva promesso a tutti noi bambini un nuovo cartone animato. Ora, a 5 anni, un nuovo cartone animato è come una nuova serie TV a 35. È una cosa importante, basilare, non secondaria. Non so perché, ma quella parte del cervello che gestisce i contenuti televisivi era già formata. Quindi, insomma, alle 20 di quel giorno che fu, io e tutti i miei coetanei eravamo ognuno a casa sua in trepidante attesa. Inizia. Suspense. Cosa? 2 spadate. Arriva il tulipano nero e... No. E se ne va. Subito. Tipo la comparsa di Enea in Troy. La presente? Enea, quello dell'idea. Noi a scuola studiamo e questi te lo trattano così. Eneas. Do you know how to use a sword? Yes. The sword of Troy. Tulipano nero uguale. Dice una cosa, se ne va. Lei. E arriva lei. Chi? La stella della segna. E signora. Da allora solo lei. Ah, ma ho preso da un altro. C'è quell'altro? No, ci sono solo io qua. Ci avevano fregato. Dopo tutta la fatica fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione per risolvere il caso di Lady Oscar, rasserenare i bambini, insabbiare bene bene, ci ritroviamo da capo. Me stavo a vedere un cartone per le femmine. Mi toccava tornare a scuola il giorno dopo e far vago. Che hai fatto ieri? Ma i compiti, mi sono anticipato... E da lì in poi sempre più difficile insabbiare. Chi glielo diceva poi alle medie dei musical, al liceo dei Dawson Creek? Vedi, tu non devi per forza passare tutto questo iter. Daniele, mi serve la macchina. Ok, papone. Ecco le chiavi, sì. Tieni. Oh. Oh, ma la macchina è distrutta. Non preoccuparti, ci ho pensato io. La macchina è riparata e customizzata. Customizzata? Che hai fatto? Mamma mia. Ciao bel signore. Che succede? Apri? Mi porti al Pigneto. Aiuto! Aiuto! Sulla pista d'atterraggio c'era steso un uomo biondo, salutava e non lo vidi mai più. Poi nel cielo un'esplosione di un motore a compressione, dedicai l'intera vita per raggiungere l'uscita. Io sono un missile, più di 1000 volte l'atmosfera ed ora sono inutile. Io sono inutile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono un missile irraggiungibile. Sulla pista d'atterraggio mi saluta un uomo, e mio papà. Dove sta la casa? Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. L'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile. Sunday we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, another they got none. Oh, stay with me. Let's just breathe. Practice and I sense, never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh. I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? As I look upon your face, yeah. Everything you gave and nothing you will take. Oh. Nothing you will take. Everything you gave. Did I say that I need you? Did I say that I want you? What if I did? I'm a fool, you see. No one knows this more than me. Cause I can't believe. Thank you. together well, my Michelle. Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, son amour vivant très bien ensemble, I need you, I need you, I need you, I need you now by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you, we'll know what I mean. I love you. Magic spells will be doing for us. I'm giving all my love to this world, only to be told. I can see, I can breathe, no more will we be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can only take the never give. And now that things are changing for the world, world, it's a crazy world we're living in. And I just can't see the out of mercy. Mercy is all we have to keep this future made of. Virtual insanity now always seem to be governed by this law. We have to be useless, twisting down new technology. But now there is no sound, for we live on underground. And I'm thinking of a mess we're in, hard to know where to begin. If I could sleep these leaky ties the earthly matters made. And now every mother can choose the color of a child. That's a natural way, but that's what they say yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Eyes another strain. There's something in this future that we have to beat. A future made of virtual insanity. And I always seem to be governed by this love. We had to be useless, twisting our new technology. But now there is no sound, for we all live underground. Ooh, we're gonna ride there. Scuola di musica forte, lezioni di chitarra con Riccardo. Allora, lascia, no, quello lascialo. Oh, no, tu via dalla batteria. Oh, e quando arriva vostro padre? Scuola di musica forte, lezioni di basso con Antonio. Niente maestro, qua non mi viene proprio, ma com'è? Maestro? Comunque penso che Resident Evil 6 sia veramente il Resident Evil peggiore. Non pensi anche tu. Scuola di musica forte, la musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse.